Leggimi dalle rime sbagliate, dalle rive impazzite, dalle solite uscite, e ricucimi addosso soltanto un cuore, senza sbagliare indirizzo postale. Che in fondo nessuno vive davvero, che in fondo nessuno lo sa nemmeno. E ti vestivi d'amianto per farmi piacere, mentre in un momento moriva in sereno, moriva in sereno. E le notti tormentate dalle zanzare ridevano insanguinate. E le notti tormentate dalle zanzare ridevano insanguinate. Proteggimi dalle spiagge drogate, dalle piogge scadute, dalle alghe avvelenate, avvelenate. Bonifichiamo la psiche per essere amati. Era bello vederti, era bello capirti. Ingoiare il catrame, bruciare e tornare. Era bello vederti, era bello vederti.